X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Lo stabilimento Whirlpool Indesit di Carinaro. L'azienda ha annunciato 1350 esuberi, di cui 800 qui. Abbiamo avuto una doccia fredda. Hanno chiuso l'impianto, hanno chiuso tutto. Andatevene. È chiuso. Lo stabilimento Indesit di Albacina verso la chiusura. I lavoratori hanno occupato la provinciale 256 con il vescovo e il sindaco, poi scioperi di un'ora per turno e assemblee. L'annuncio di chiusura di Whirlpool è solo l'ultimo grave episodio del processo di abbandono. Ci sentiamo morti, è finita. Ci viene da piangere, quindi. Lei da quanto lavora qua? 29 anni e abbiamo dato tutto, il cuore proprio. I lavoratori non nascondono la loro preoccupazione, da giorni vivono in costante tensione. Aspettiamo il piano e speriamo il meglio. Piano inqualificabile, è questo il giudizio del ministro Federica Guidi. La richiesta che stiamo facendo è garantire l'occupazione e minimizzare gli impatti occupazionali. Mentre Renzi prova a far ripartire la sua azione riformatrice, il paese reale soffre. Pochi mesi fa il presidente del Consiglio ha salutato come un grande successo l'arrivo in Italia dell'americana Whirlpool, che ha comprato nel 2014 la Indesit, l'azienda di elettrodomestici che era guidata da Vittorio Merloni, uno dei figli di Aristide Merloni. Però il piano industriale presentato dalla multinazionale sembra colpire in modo feroce una zona già difficile come la provincia di Caserta. Qui si annuncia la chiusura dello stabilimento di Carinaro, un comune dove il sindaco PD da un anno è disperato. Marianna da Provitola, sindaco di Carinaro. Ecco, sindaco, quante persone sono impegnate nella Whirlpool di Carinaro? Oltre 130. E nell'indotto? 815 più altri 500 relativamente all'indotto, quindi per un totale 1500 operai. Senta, ma è l'unica attività produttiva della zona, sindaco? L'unica attività produttiva della nostra zona industriale, l'ultima grande eccellenza produttiva che c'è nella nostra zona industriale. Ecco perché perderla significherebbe avere la completa desertificazione di questa meravigliosa zona industriale, che comunque resta la terza più grande del Mezzogiorno d'Italia. Perché vi rimane solo che cosa? La logistica? Vi rimane semplicemente la logistica, e con tutto il rispetto per Conad, Sisa, Sigma e così via, però si tratta solo di logistica e non anche di produzione. Ma l'azienda che prospettive vi ha dato, se ve le ha date? Intanto io credo, ho motivo di ritenere che l'azienda non abbia ancora scoperto le carte sul tavolo, soprattutto da quello che emerge dagli ultimi incontri avuti anche con il nostro presidente Renzi. Oggi c'è l'incontro tra governo e azienda, no? Sì, oggi c'è l'incontro tra governo e azienda e si spera, io auspico, che come dire, si giocherà questa volta a carte scoperte dopo circa due mesi, insomma, dalla nefasta notizia. Sarebbe ora che la Whirlpool ci facesse capire che cosa intende fare o quali sono le sue proposte o quali sono le sue controproposte, voglio dire. Ecco, ma tutto questo a tutt'oggi non è ancora chiaro a nessuno. Lei comunque era entusiasta come Renzi quando la Whirlpool ha comprato l'Indesit? Sì, diciamo di sì. Lei è del sì, PD, perché... no? Sì, PD. Io sono un sindaco del PD, convintamente del PD, ho seguito tutta la storia fino poi a diventare PD. Ero entusiasta, ero felice, anche se non ero direttamente impegnata nella vicenda, insomma. Ho capito poi dopo dove quell'accordo, diciamo, ha presentato qualche falla, ecco. Senta, ma in realtà voi oggi vi aspettate soltanto che tra il governo e l'azienda almeno si mettano le carte in tavola, questo? Almeno si mettano le carte in tavola, e io vorrei, anzi voglio, ho detto chiaramente a Renzi e anche a Papa Francesco l'altro giorno, io voglio che nella nostra zona industriale ci siano attività produttive, missioni produttive, assolutamente, sì. Perché non possiamo permetterci di perdere questo tipo di attività industriale in una terra già così difficile, mortificata, martoriata, colonizzata un po' da tutti, compresa mafia, camorra e quant'altro. Oggi pare che ne stiamo venendo lentamente fuori, non è possibile subire un affronto del genere, assolutamente. Io non sono d'accordo, penso che la Whirlpool possa cambiare il suo piano, debba rivedere il suo piano, naturalmente. Cioè, che cosa dovrebbe fare? Governo, dovrebbe lasciare la produzione qui. Io non dico che deve chiudere altrove e lasciare aperto lo stabilimento di Carinaro, non vorrei mai una cosa del genere. Però quando bisogna tagliare da qualche parte, qualcuno ci rimette sempre. Ma perché tagliare tutto a Carinaro? Mi scusi, è questo che non capisco. Perché tagliare, perché chiudere completamente la nostra fabbrica? Insomma, voglio dire, no? Un piano industriale può essere impostato in tanti modi. Certo, naturalmente. Senta, comunque c'è in programma uno sciopero per il 12 giugno. Sì, per il 12 perché giugno. Non avete grandi prospettive sull'incontro di oggi? Assolutamente no. Avete già no. stabilito uno sciopero? Assolutamente no. Sì, è stato già stabilito uno sciopero a prescindere. Ora si spera, voglio dire, che oggi cambi qualche cosa, insomma, che venga fuori qualcosa di nitido, preciso, chiaro, voglio dire, dal punto di vista della sorte di questi lavoratori. Senta, insomma, sentiamo, lei ha citato Papa Francesco, sentiamo cosa ha detto. La mancanza o la perdita del lavoro o la sua forte precarietà incidono pesantemente sulla vita familiare e a volte la distrugge. L'economia e la politica sono avare di riconoscimenti a tale riguardo. A voi cosa ha detto personalmente il Papa? A noi, oltre a lanciare un chiaro messaggio di solidarietà e di vicinanza per tutti i lavoratori della Whirlpool, a me personalmente, quando ho avuto l'onore e il privilegio di fare il baciamano, insomma, in un paio di battute io ho chiesto una intensa preghiera da parte sua per la sorte della Whirlpool, e lui mi ha assicurato che l'avrebbe fatto, e non solo. Per cui a quel punto, insomma, ci siamo stretti la mano. Speriamo nel Papa. Sì, speriamo nel Papa, io spero nel Papa, io spero in Renzi, io ho bisogno di sperare, non posso non sperare, dottor certo, Minoli, perché amministrare una comunità al sud Italia, è molto difficile, conto, signor insomma, sindaco, che è veramente una missione con l'altissimo tasso di disoccupazione che c'è sul territorio. Certo, certo. Io al comune ricevo tutti i giorni cittadini, padri di famiglia, giovani, c'è poi una fascia di età che va dai 40 ai 55, i quali hanno perso il lavoro e che io credo, motivo di ritenere, che purtroppo non lo ritroveranno mai più. Questo è un dramma, molto diffuso sul territorio. È un dramma, e quindi figuriamoci se anche questa fabbrica dovesse chiudere, che cosa si potrebbe riversare sul territorio? Noi per quello che possiamo fare seguiamo l'evolversi della situazione e ci risentiremo sicuramente. Io vi ringrazio. Buon lavoro. Ecco, ma perché gli accordi tra le parti sociali sembrano siglati e poi vengono disattesi? Ci sono degli strumenti di pressione su queste multinazionali? Oggi c'è l'incontro, l'abbiamo sentito. Ce lo spiega il professor Roberto Pessi, professore di diritto del lavoro alla LUISS, che ha seguito molti di questi scontri. La domanda è: ha ragione il Papa quando dice che l'economia e la politica sono avare nel riconoscere la responsabilità sociale verso i lavoratori? Beh, in qualche misura il Papa riprende la dottrina sociale della Chiesa, gli insegnamenti di tanti papi, compreso Giovanni Paolo II. Sì. Certamente qualche volta gli imprenditori e le stesse economie non si rendono conto fino in fondo che anche a loro va chiesto un sacrificio per solidarietà. Ecco, oggi ci sarà il tavolo di trattative tra sindacati, vertice della Whirlpool, al Ministero dello Sviluppo Economico. Quali sono gli strumenti in mano al governo per farsi ascoltare? Il governo non ne ha moltissimi, ovviamente c'è la moral suasion e in qualche misura gli incentivi economici alle imprese. Questi ultimi è difficile distribuirli, soprattutto in un settore come quello che riguarda la Whirlpool, quindi diciamo gli elettrodomestici, settore dove il mercato è saturo e sono saturi i consumi. Certo. Quindi... Senta, ma esistono sanzioni per chi promette e poi non mantiene? È chiaro che se dipende soprattutto dove è stata fatta la promessa. Se c'è un accordo sindacale, evidentemente un inadempimento può anche determinare il diritto dei lavoratori di agire davanti a un giudice per chiedere un risarcimento del danno. È difficile andare oltre. Ma per esempio, secondo la Whirlpool, gli esuberi sono 1.350. Secondo i sindacati potrebbero arrivare a 2.060. Però... ha ricordato il ministro Guidi che c'era già un piano di riassetto dell'Indesit stabilito nel 2013 che escludeva licenziamenti fino al 2018. Insomma, ore e ore di negoziati inutili quelli. Certamente in questo caso in qualche misura c'è un inadempimento. È anche vero che i contratti collettivi, gli accordi si possono disdettare. È chiaro che probabilmente è anche un po' cambiato il quadro di riferimento con il cambio dell'azionariato. E quindi è possibile ridiscutere il piano. Il governo può sicuramente fare pressioni e lo stesso sindacato può fare pressioni. Però dal punto di vista suo, professore, questi accordi si ereditano o decadono col nuovo proprietario, per essere concreti? Diciamo che si ereditano, ma si possono disdettare. Quindi non si ereditano tanto. Non si ereditano tanto. Completamente. D'altra parte, lei capisce meglio di me, il lavoro... ci deve essere, no? Se certo. Il mercato non tira. Certo. Senta, ma il piano dei licenziamenti e del rilancio della Indesit è stato deciso dal board americano. Marco Bentivogli, che è il segretario generale della FIM, dei metalmeccanici della CISL, avrebbe voluto un rappresentante del board americano al tavolo delle trattative oggi. Perché si tratta con chi non ha l'ultima parola? Ha senso? È difficile con queste multinazionali portare direttamente, diciamo, il vertice aziendale della multinazionale nei singoli paesi, non è semplice. È evidente che qui di nuovo un po' il ruolo della politica che può spingere su questo versante. Ma i lavoratori si possono rivalere con i merloni, per esempio, se c'è un accordo ereditato e decaduto? Credo che sia molto difficile, qui stiamo parlando di un passaggio di proprietà. Certo. Credo che semmai qui il vero problema sono i cosiddetti contratti di solidarietà, cioè un po' la vecchia idea, vediamo di ridurre un po' l'orario di lavoro per ridurre diciamo il numero di licenziamenti. È chiaro che qui poi c'è un tema specifico, che è il fatto che vogliono accorpare gli stabilimenti, esatto, quindi è più difficile. Appunto, ancora più difficile. Ma i sindacati oggi hanno strumenti di pressione reali sulle scelte industriali di multinazionali come la Whirlpool, oppure parliamo del nulla? Sono sempre più deboli. Lei pensi alla multinazionale più importante, diciamo più famosa, o fra le più famose italiane, la Luxottica. Sì. 69 stabilimenti nel mondo, uno solo in Italia. E questo ci dice che la globalizzazione dei mercati porta con sé problemi di logistica. Certo. E quindi prodotto che fa la Whirlpool è un prodotto di cui il mercato è semisaturo. Certo. Ma che cosa ci insegna, per esempio, per stare in questo tema o analogo, la vicenda della Terni, che in qualche modo si è risolta invece positivamente? La Terni opera su un segmento di prodotto molto più specializzato, ad alta tecnologia, che sicuramente riguarda non solo il nostro paese ma anche un mercato europeo, ed in più se ripartissero le infrastrutture potrebbe addirittura crescere in termini occupazionali. Quindi dobbiamo andare su prodotti di alta tecnologia, di alta gamma, certo. Non possiamo immaginare di vendere ancora molto prodotti ormai che sono presenti nelle famiglie, che hanno tassi di sostituzione molto lenti. Certo. Senta, ma oggi è più efficace un sindacato forte o un ottimo studio di avvocati? Una battuta. No, chiederlo a lei fa ridere, però non è tanto comico. Secondo me un sindacato forte sicuramente è importante e significativo. Però è chiaro che un sindacato è forte nella misura in cui il quadro politico e economico di riferimento gli consente di esserlo. Se lei va a vedere anche oggi, mi pare ieri anzi, su, su Repubblica si faceva un po' il quadro dei sindacati in Europa e si vede che il tasso di sindacalizzazione è sceso in Francia. C'è dappertutto. Non è più quella la forma o la modalità di difesa, però non ce ne sono molte altre in questo dubbio. Momento. Non c'è dubbio, però è chiaro che questo vuol dire che bisogna soprattutto pensare a una politica economica europea integrata, perché altrimenti non è possibile. Quindi forse il sindacato va ripensato in una dimensione europea. Anche perché la digitalizzazione crea valore per il capitale e non per il lavoro. Non c'è dubbio. E questo... quindi il lavoro diminuisce in realtà. La tecnologia, diciamo che diminuisce il lavoro soprattutto in quei settori della manifattura tradizionale, certo, in cui ovviamente il prodotto magari è superato da nuovi mezzi di produzione, la robotica per esempio. Esatto, ma il Job Act, con il contratto tutele crescenti, gli sgravi fiscali per le nuove assunzioni, non sono ancora abbastanza per evitare i licenziamenti o sono già uno strumento del nuovo mondo? Sono in parte uno strumento del nuovo mondo e sicuramente non servono per i licenziamenti dei lavoratori attualmente occupati. Probabilmente daranno una spinta all'occupazione anche significativa nel breve, e poi però bisogna attendere la ripresa, perché neanche il Job Act e la flessibilizzazione, come si dice in uscita, certo, del rapporto di lavoro può creare posti di lavoro se i posti di lavoro non li crea l'economia. Ma negli altri paesi, per chiudere, se un gruppo straniero acquisisce uno italiano, come nel caso di Indesit o di Terni, ci sono tutele o strumenti vincolanti maggiori oppure siamo a livello medio degli altri paesi europei? Diciamo dipende dai singoli paesi. Per esempio, secondo me la Francia ancora utilizza la strategia fra virgolette non dichiarata delle partecipazioni statali, sì, certo, cioè entra fortemente nel capitale straniero. In Germania c'è un modello diverso, diciamo soprattutto nell'impresa, il cosiddetto modello duale, quindi i lavoratori sono nel consiglio di sorveglianza, in qualche modo sono molto cogestiscono in qualche modo le aziende e sono anche molto collaborativi rispetto al tema della produttività, certo. E poi bisogna tener conto che la Germania ha fatto il bingo con l'unità, perché praticamente ha potuto contare per 10 anni su metà del paese, come per l'Italia negli anni 50, in cui praticamente la manodopera costo zero bassissimo, ma soprattutto c'erano la richiesta dei consumi, certo, se lei ha visto quel film Goodbye Lenin, certo, mancavano addirittura i televisori, i frigoriferi, qualsiasi cosa, no? E quindi è chiaro che se tu hai il break even point per le imprese, le imprese hanno comunque una base solida per poter continuare. Una Whirlpool 10 anni fa in Germania invece di licenziare avrebbe assunto. Certo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Adesso per tirarci un po' sul morale anche, riprendiamo con Sara Tardelli il nostro viaggio in Italia alla scoperta dei nuovi 1000, di quelle persone che cercano di migliorare le nostre vite. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi 1000. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Alessandro Borzaga, 56 anni, fondatore e presidente di Passamano, un negozio che si basa sull'economia del dono. Ma che cos'è Passamano? Un bazar senza denaro? Passamano potremmo definirlo un negozio dell'usato gratuito, nel senso che si basa sulla filiera della gratuità. Io ho avuto la fortuna di ereditare questo negozio, che l'ho messo a disposizione della cittadinanza senza dover pagare l'affitto, e di conseguenza poi il quartiere, tutta la città hanno risposto portando centinaia se non migliaia di oggetti, tutto quello che non gli serve più nelle cantine dei garage, a partire dall'abbigliamento, l'elettronica, i libri. Quindi le persone vengono a portare oggetti, ma possono ovviamente anche poi portarne a casa. Come certo, funziona? Certamente, però non è un baratto, nel senso che la tipologia dei clienti è basata sulle persone ben distinte che portano proprio perché le vogliono donare o perché se ne vogliono liberare. E poi ci sono tutte le persone che comunque vengono a mani vuote per prendere, no? Alessandro, ha iniziato questa avventura nel 2012. Perché? Esatto. Eravamo un gruppo gruppo di persone del movimento di Crescita Felice, del movimento Transition Town, quindi degli ambientalisti, che però volevano fare qualcosa di concreto sul territorio. Cioè, nel senso, senza aspettarsi nulla dalla politica o dalle istituzioni. Certo. Abbiamo voluto copiare quello che è il negozio Cost Nix di Innsbruck e i negozi Free Shop che ci sono a Berlino. Queste realtà nel mondo germanofono sono già un pochino diffuse e devo dire che ci è venuta molto bene con le nostra, con la nostra originalità, ecco. Tu prima facevi un altro lavoro però. Questo non è il mio lavoro perché tutti siamo assolutamente volontari. Quanti siete che lavorano per Passamano? Oggi siamo arrivati a superare i 30 volontari e direi più volontarie perché la media è circa 2 donne e un uomo. E di cui la metà straniere e stranieri. Chiaramente non sono tutti presenti lì perché appunto essendo volontariato ognuno fa 2-3 turni alla settimana, quindi ognuno certo. offre il proprio servizio per 4-6 ore alla settimana, ecco. Io ho lavorato per 25 anni in un'azienda farmaceutica e le cose mi sono andate piuttosto bene, quindi posso dedicarmi senza angoscia a un'attività. Alla felicità degli altri. Esatto, oltretutto la mia soddisfazione, il mio interesse personale è quello di creare un progetto che faccia del bene alla comunità e oltretutto ci permetta anche di sprecare meno e di evitare che tutti questi oggetti poi vadano inceneriti, certo. vadano bruciati, che ce li respiriamo oppure vadano proprio buttati. Alessandro, ma una curiosità, che tipo di persone frequentano Passamano, il tuo negozio che c'è appunto a Bolzano? Sì, diciamo il nostro negozio perché dopo pochi mesi ci siamo costituiti in associazione. Ci sono persone che hanno un reale bisogno perché sono poco abbienti, diciamo delle fasce più deboli. Però ci sono anche i collezionisti che cercano l'oggetto certo. strano, ci sono gli amanti dei libri, ci sono gli amanti dei vestiti vintage. Quindi noi puntiamo anche molto su quelli perché quelli fanno spontaneamente delle offerte che ci permettono di pagare poi tutte le spese e ci hanno anche permesso poi di aprire il laboratorio di riciclo, il laboratorio di Second Art, giusto? Esatto. Brevemente raccontami che cos'è? Ci basiamo un po' su quelle che sono le resourcerie del mondo francofono, insomma i negozi, i laboratori dove si ripara. Ma non è che si ripara a pagamento, si ripara per il gusto di non buttare le cose. È una sorta di educazione a non sprecare. È un'educazione a non sprecare, esatto, è un'educazione ad aggiustare e non buttare le cose appena solamente un tasto è rotto. Grazie. Grazie a voi Radio 24. Per chi volesse saperne di più di Passamano e di tutte le novità che si inventerà Alessandro con i suoi colleghi, potete visitare italiachecambia.org. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Every time I see your eyes ain't got no chance, you steal my heart. I taste your smile, an angel takes me to the stars. Tell me, how can I see all the colors of the rainbow if you don't stay right here with me? Ain't got no chance to be. Angelo, dove andiamo? È sempre in metropolitana perché oggi c'erano dei colori particolari, fluo si direbbe, perché poi preparavano all'apparizione, all'arrivo di elefanti dall'aria sorniona dentro la metropolitana e dentro la metropolitana anche giraffe inappuntabili e poi ufficiali di marina e poi c'erano quinte di teatro sparse dappertutto in una baraonda da tanti colori con le tinte forti ad allungare il profilo di città improvvise e di distese d'acqua infinite. Un vero e proprio mare in metropolitana, questo è successo stamattina, con tanto di nave da crociera in arrivo. Non c'erano convogli, infatti, ma tutto un via vai di vele, piroscafi, pilotine, e uno di questi, un piroscafo grande, aveva sul pontile tutta una scolaresca fatta di seminaristi, che erano felici di fare il loro arrivo in spiaggia, se solo ci fosse un lido generoso, ovviamente, pieno di tavoli da ping pong, e c'erano. E di chioschi di gelato, e c'erano, e praticamente oggi si sono presentati in metropolitana non i pendolari, ecco ho capito cosa è successo, non erano i pendolari, ma erano i loro sogni appena consumati ma che non si erano spenti. E tutto in metro è diventato preda del giorno 9 segnato in calendario e non c'è stato verso di riportare la calma. I tornelli sono diventati ombrelloni e il passatempo si è preso tutto il tempo con la musica di Rafael Galazzo. Oggi vai anche tu, Mario. No, sui tornelli che si sono trasformati in cosa? In ombrelloni. Il tornello in ombrellone. E il passatempo si è preso tutto il tempo. Io sono cascato sotto la regia, praticamente. Vai tu con la tua bolla. Poi mi spieghi chi è il tuo pusher, quello sì. Che ti dà tutta sta roba la mattina. Se lo chiedono in molti, sì. 5 preghiere al giorno. Lo fa bene. Ok. Sicuro. E senti, Giovanni, allora, ti dirò la verità. La bolla comincia senza niente. Abbiamo scritto su Mafia Capitale, abbiamo soprattutto letto su Mafia Capitale. E sai che io ho capito che molti non conoscono Roma. Certamente. E vabbè, ok, io capisco, però ci abitano, quindi dovrebbero conoscerla. E secondo me non sanno neppure chi sia Remo Remotti, che ha ancora tanto da dire. Senti qui. Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via, anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. E io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione, andai via da questa Roma, anni 50, e me ne andavo da quella Roma addormentata. Da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemo se bene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta, quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritozzi con la panna, senza panna, delle mosciarelle. Hai visto? Ti ricorda qualcosa? Mi sembra che non è cambiato. Ti sembra tanto, oggi? Senti. Dei portieri, non è tanto. Dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti ai quali non saremo mai puntuali, dei pagamenti che non vengono effettuati. Quella Roma... Insomma, mi sembra che Pietrangelo, ti ricorda qualcosa, Remo Remotti, questa canzone? Mamma Roma Dio. No, ma ancora prima. Ancora prima, no? Ancora prima, certo. Prima quando? La Suburra. La Suburra. C'è tutto il racconto eterno di questa città. Senti, non cambia niente. Senti. Dai, andiamo avanti. La circolare destra, la circolare sinistra, delle mille chiese, delle cattedrali. Non ce la faccio, no, dai. Scrivete di Mafia Capitale, va? Andiamo avanti, va. Va. Bello. Non lo presento neppure. Non lo presento. Non lo presentiamo. Va bene. Che cosa succede? Che Renzi è uscito dal G8. Quindi... Dal G7? Sì, dal G7. Io pensavo ci fosse la Russia invece. No, la Russia non l'hanno invitata. Dal G7 volevo dire. E vabbè, l'agenda del G7 riguardava il cambiamento climatico. Nessuna traccia di proposta italiana, di piano italiano discusso in Germania. E Russia, tema sul quale, come sapete, stiamo con i piedi in due scarpe. Sì. Ha fatto una dichiarazione sulla immigrazione, tema che non era ovviamente in discussione là. Sarà in Europa? Lo sarà in Europa, certamente, e abbiamo anche delle valide ragioni, devo dire, vediamo che se caviamo un ragno dal buco, come suol dirsi. Italy, dunque, Renzi è tornato a casa, si è subito scontrato con la minoranza, ha ribadito che lui ha i voti per fare la riforma della scuola, ma la realtà è che oggi bloccano gli scrutini, e, insomma... Si è inimicato tutto quel mondo che aveva anche un punto di riferimento nella sinistra, come sanno tutti, si è bruciato un po' di fiducia. Siccome leggiamo cose, minacce, diktat, scontri con la minoranza, eccetera, secondo me c'è ancora un po' di confusione post-elettorale nel Partito Democratico. Vedremo sulla scuola come si troverà la quadra. Salamino. Una cosa è il popolo, un altro destino invece è il confine. Tutto il mondo, se giustamente commosso, seguendo il cammino della popolazione di colore in Sudafrica. Nelson Mandela ha guidato la sua gente e l'apartheid, cioè la separazione tra i bianchi e i neri in Sudafrica, è finita. C'è poi una vicenda di cui il mondo a malapena si occupa. abbandonati innanzitutto dai loro stessi fratelli arabi, orfani come un tempo di un Bettino Craxi, per esempio, sensibile più di ogni altro leader occidentale della loro sorte, i palestinesi continuano a essere popolo senz'altro destino che la cancellazione da ogni luogo, prima ancora che da una carta geografica. E c'è infine, cruciale nell'attuale grande gioco dello scacchiere internazionale, il popolo curdo. È un altro popolo a cui il destino non ha concesso confini, ma che adesso, all'indomani delle elezioni in Turchia, si incammina in un percorso di identità che darà terra e suolo a discapito di quattro entità statuali, cioè la Turchia, l'Iraq, l'Iran e la Siria. E la prossima guerra, la vera partita, sarà qui. Ben quattro piccioni con una sola fava, perché la libertà, lo vorrei ricordare, non è uguale in tutto il mondo e ognuno ha un suo destino, perfino quello di diventare pretesto per gli interessi altrui. Fai la bolla, Mario? Sì, e anche con una grande canzone. Sì. L'hai vista tu, la luna a mare chiaro, l'ho vista sì, e abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, corride, amore. Bello, Sergio Caputo. E altre quisquilie di cultura generale. L'astronave, Allora, qua, l'astronave è quella di Marchionne, che senza sosta continua i suoi piani di espansione. Ormai non sono più indiscrezioni, c'è più di un'intenzione, ovviamente c'è anche un piano, evidentemente, è quello di arrivare a una fusione con General Motors. Sapete tutti che il numero uno di Fiat Chrysler auspica il consolidamento degli operatori del settore, quindi pochi costruttori in tutto il mondo che hanno vari marchi, quindi hanno un portafoglio di marchi molto grande, ampio, questo ovviamente per economie di scala, costi minori, più ricerche, eccetera, molto importante. GM oggi tiene la sua assemblea a Detroit, devo dire che il piano di Marchionne secondo me ha anche un tempismo ben studiato, perché GM ha delle difficoltà, delle cause giudiziarie per il malfunzionamento dei suoi sistemi di accensione che avrebbero causato anche delle morti in alcuni suoi modelli. Insomma, sta succedendo qualcosa. Chrysler, l'uomo giusto al posto giusto. E Chrysler è stata salvata da Marchionne, fusa con Fiat, ha vendite record. GM ha bisogno probabilmente di fare un salto nella sua storia. Sarebbe una grande avventura. Sarebbe un'enorme avventura, certo, ed un ulteriore mattone nella casa che vuole costruire Marchionne. Vediamo. Pubblicità. Mix 24. Canzoniere. Sta nascendo solo adesso questa terra della sera. Questo occidente diverrà, oltre l'occidente e l'oriente, per tramite di ciò che è europeo, il luogo del futuro coerente col destino. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, la bolla. Questo è il passo di Michael Jackson. Senti che bello. You rock my world. My life will never be the same. Qua c'è la ballerina, poi che fa una cosa che io divento matto quando la vedo. Mamma mia, la dura. Vabbè, parliamo di cose che si muovono, che ballano, che cambiano ritmo all'economia, all'esistenza, agli stili di vita, ai consumi, e dunque parliamo di Apple alla fine. E beh, ha lanciato, anzi lancerà, lo ha solo presentato per ora, il suo nuovo servizio di streaming musicale, Apple Music. Avevamo anticipato qua che la sfida con Spotify per Apple stava diventando una cosa seria, quindi dopo aver rivoluzionato 12 anni dopo il mondo della musica, Apple lo fa ancora di fatto. Il servizio sarà lanciato in 100 paesi, ovviamente aggiornamento automatico su tutti i device disponibili nel mondo. Per le band sarà possibile registrare e condividere la musica sulle piattaforme di Apple attraverso l'applicazione. Ci sarà una radio che su internet, in realtà, vorrei dirlo, è una playlist, come dicono molti guru del settore. Ce ne dobbiamo fare una pure noi. Che volete che vi dica? È innovazione. Beh, tu sei pronto, no? È innovazione. Incrociamo Mario e Pietro. Noi la facciamo. E facciamo la playlist. La playlist. Vai. Salamino. Torna la guerra fredda. Ma una cosa è il Dominium, un altro è l'Imperium. Barack Obama gioca la carta pesante e accusa Vladimir Putin di voler ricostruire l'impero. Obama, lo sappiamo, fa letture superficiali e aggiunge: vuole ricostruire l'impero sovietico. Questo è un errore blu. E non tanto nelle intenzioni di Vladimir Putin di volere uno spazio continentale per la propria patria, ma nel sovietico. L'istinto russo è imperiale, ma ha una radice più antica, è zarista, europea ed è asiatica. E siccome sarebbe come il bue che dà del cornuto all'asino, quella dell'americano che dà dell'imperiale al russo, vorrei dire che l'impero è il blasone di Russia, mentre invece gli Stati Uniti sono il soggetto attivo di un dominium. Tutto ciò ve lo racconto perché è arrivato in libreria Imperium di Carl Schmitt. È stato edito in Italia da Quod Libet e grazie a questo saggio si può capire proprio la differenza tra Obama e Putin, tra dominium e imperium. Il primo mira un sistema egemonico il cui pensiero unico fa del mondo un orizzonte unico. Il secondo, invece, cioè l'Imperium, è figlio non a caso di Roma universale. È un sistema centrale che riunisce a sé le pluralità dei popoli. Anche il primo è figlio di qualcuno. È figlio della Rivoluzione francese, ma come già insegnò Tchaikovsky, ogni marsigliese troverà sempre un generale inverno sul proprio cammino che saprà metterla a posto. Ascoltate. È la famosa composizione di Tchaikovsky quando mise insieme la Marsigliese che veniva poi travolta, grazie al generale inverno, dall'inno imperiale russo. Hai capito? No? Sottile, eh? È questa, sempre così gli finisce questa storia. Cosa vuoi che ti dica? Niente, stiamo in ascolto. Affuso Carl Schmitt con Tchaikovsky. Vabbè, io la prossima volta. A Rita Lely gli diciamo che ci chiede, implora: Minoli, perché non fate una puntata tutta sul positivo per dimenticare tutto quello che oggi ci rende un po' tristi? Una puntata per sognare, forse c'ha un po' ragione. La facciamo. Venga in metropolitana, signora. Signora metropolitana con buttafuoco, si ride, si balla, si scherza, si canta e non solo. E intanto, dopo il giornale radio, va in onda come sempre la storia. Marina Milone, Marina, cosa ci racconti oggi? Sì, Giovanni, Papa Francesco, come sappiamo, sul volo di ritorno da Sarajevo ha annunciato che a breve si pronuncerà sul fenomeno delle apparizioni della Madonna di Medjugorje. E allora oggi, con l'aiuto di Elisabetta Castana, che ha indagato a lungo che è stata a Medjugorje, cerchiamo di capire qual è la posizione della Chiesa rispetto ai sei veggenti che dicono di vedere la Madonna fin dal 1981. Beh, sono anni che la Chiesa indaga su questo fenomeno, che è un grande fenomeno di massa, effettivamente. Sono circa 2 milioni di persone che si muovono per andare, cioè una cosa abbastanza... Va rispettata, va capita. Sono curioso anch'io di sapere poi quale sarà la decisione che prende il Vaticano. Ma prima della pubblicità, Se mi vuoi, di Pino Danieli e Rene Grandi, e ricordo che naturalmente alle 23 c'è la replica della puntata di oggi.